I turchi mostrano i muscoli, i rini, le sue debolezze. Israele è incostituzionale la legge sull'annessione. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Il compito principale della missione Irini è quello dell'attuazione dell'embargo delle armi da e per la Libia. The Israeli Supreme Court has delivered regulation law that gave Israeli settlers the ability to take over and build upon private Palestinian land in the West Bank. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono naturalmente Antonio Tagli, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Quest'oggi Luca Cremonesi in assistenza e in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, il numero per sms e whatsapp per domande e commenti sui due temi che tratteremo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Lo potete fare anche attraverso i social, la pagina Facebook, cercateci, è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Poi siamo su Twitter, i due account da tenere d'occhio se amate questo social sono Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Due i temi, dicevo. Da un lato si è sfiorato l'incidente non soltanto diplomatico ma a questo punto anche militare poche ore fa, perché un cargo battente bandiera tanzaniana diretto verso Misurata era stato approcciato da una fregata greca da poco aggiuntasi alla missione Irini, e durante queste operazioni di controllo e di approccio le operazioni stesse sono state immediatamente bloccate da un'altra fregata, quella turca, che avrebbe intimato alla missione che deve monitorare l'embargo di allontanarsi. Così sarebbe stato fatto. La nave adesso è a Misurata, ripiena di che cosa? Qualcuno sussurra carri armati e armi. Cercheremo di andare più a fondo in questa situazione. E poi lo sapete, Netanyahu aveva messo la quinta, era pronto ad annettere una parte della Valle del Giordano, ma la Corte Suprema israeliana ha detto che addirittura la legge del 2017 che aveva garantito le nuove colonie, beh, anche quella legge è incostituzionale. Con quali conseguenze? 349-238-6666 per commenti e domande. Intanto noi sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci porta in Cina, o meglio tra Cina e Taiwan. Perché? Perché Pechino ha criticato l'esercito statunitense per un volo definito provocatorio di un aereo sopra Taiwan, affermando che il passaggio aereo ha violato la sovranità della Cina e ha violato anche il diritto internazionale. Secondo a quanto ha riferito il ministro della difesa di Taiwan, l'aereo statunitense, un C-40A, è decollato dall'isola giapponese di Okinawa, è entrato nello spazio aereo dell'isola con il permesso delle autorità, anche se non è atterrato in alcun aeroporto dell'isola stessa. Anche se, come sapete, Washington e Taipei non hanno legami diplomatici formali, gli Stati Uniti sono il maggior sostenitore internazionale di Taiwan e il più importante fornitore di armi. Secondo però la lettura di Pechino, quel innocente, stavolta lo metto io tra virgolette, volo, evidentemente è risultata una seria provocazione. In Francia, ne dà conto l'agenzia Nova, nel corso di una riunione che è avvenuta in videoconferenza con un gruppo di donatori che ha sostenuto la sua candidatura nel 2017, il presidente francese Emmanuel Macron ha evocato la possibilità di dimettersi e farsi rieleggere in occasione di un voto anticipato. La notizia è stata diffusa in primis dal quotidiano francese Le Figaro, che cita come fonte uno dei partecipanti proprio a quell'incontro. Secondo quanto riferito, il presidente francese starebbe riflettendo su possibili dimissioni nelle prossime settimane o mesi, che porterebbero quindi a un'elezione presidenziale anticipata. Macron si dice sicuro di vincere perché, testuali parole, non c'è nessuno contro di me. Alla richiesta di un commento, l'Eliseo ha fatto sapere che per principio non scartiamo nessuna ipotesi. Intanto, delle notizie che arrivano dagli Stati Uniti, riprese dal Jazeera, anche dalla CBS, dal Corriere, tra la stampa italiana di poche ore fa, la notizia che Thomas Lane, ormai ex agente di polizia di Minneapolis, è stato rilasciato su cauzione dal carcere della contea di Hennepin, nel Minnesota. L'uomo, assieme ai colleghi Tou Tao e J. Alexander Kueng, deve rispondere alle accuse di favoreggiamento di omicidio involontario di secondo grado e di omicidio colposo di secondo grado in relazione alla morte di George Floyd, che è avvenuta lo scorso 25 maggio. Per i tre la cauzione era stata fissata, pensate, a $750,000 con condizioni. Derek Chauvin invece rimane in carcere, per lui la cauzione è stata fissata in $1.25 milioni, la prossima udienza il 29 giugno. Emergono peraltro sempre ulteriori dettagli su quella che era il rapporto, la relazione tra George Floyd e Chauvin. Secondo quanto spiegato in un'intervista a CBS da un uomo che ha dichiarato di aver lavorato con loro nella discoteca El Nuevo Rodeo Club di Minneapolis, i due si conoscevano piuttosto bene, pare ci fossero state delle frizioni fra i due, si sono scontrati. Molto aveva a che vedere col fatto che Derek, cioè il poliziotto, era molto aggressivo nel club con alcuni clienti, la qual cosa rappresentava un problema. Nel frattempo Philonise Floyd, che è il fratello di George, da 20 membri del congresso, ha parlato alla commissione giustizia della Camera tra le lacrime, profonda commozione. Le frasi forse rimarranno stampate in questa tragica pagina di storia della recente storia statunitense. George è morto per una discussione su $20, è questo che vale un afroamericano nel 2020? Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, non avevo dubbi, perché quello che è accaduto poche ore fa nelle acque del Mediterraneo certamente farà discutere, avrà profondi, serissimi contraccolpi politici. Però vi porto lontano, almeno apparentemente lontano, andiamo in Costa d'Avorio, almeno 10 persone morte in un attacco jihadista contro un posto di frontiera a Cafolo, nord-est del paese, confine, guarda caso, con il Burkina Faso. La notte tra mercoledì e giovedì, in cui in quella stessa zona c'era stata un'operazione antijihadista, è avvenuto l'attacco. Probabilmente si tratta di una ritorsione. Quello che è interessante è il primo attacco del genere in Costa d'Avorio dai tempi di quello di Gran Bassam, rivendicato dal gruppo Al-Qaeda del Maghreb Islamico. Era il 2016, morirono 19 persone. Come ai noi tristemente abbiamo spesso sottolineato, quelle varie formazioni jihadiste, tra cui Al-Qaeda nel Maghreb Islamico, che da tempo hanno alzato la testa, ormai costituiscono una minaccia non più soltanto regionale, ma a questo punto addirittura continentale. Questi sono i nostri dossier internazionali. Adesso, Valeria Bernardi, andiamo in Libia. Nome Sirkin. Anno di costruzione 1980. Tipologia nave cargo per il trasporto di autoveicoli. Dimensioni 103 metri di lunghezza per 20 di larghezza. Stazza lorda 5846 tonnellate. Cargo non confermato. Armatore Avrasya Shipping, con sede a Samsun in Turchia. Dopo aver battuto bandiera liberiana, norvegese e panamense, dal 2014 la Sirkin è registrata nella flotta commerciale della Tanzania. Si tratta di una bandiera di comodo, consuetudine affermata nel mondo della navigazione, che permette all'armatore di evitare le rigide normative imposte da altri stati. Inoltre, la Sirkin, dopo aver subito diversi fermi, risulta essere monitorata speciale della Black Sea MOU, l'ente preposto alla verifica degli standard minimi di navigazione nel Mar Nero. Posizione attuale, porto di Misurata, Libia. Provenienza, porto di Haydarpasa, distretto di Istanbul, Turchia. Dai registri marittimi risulta che la Sirkin ha compiuto lo stesso viaggio tra Turchia e Libia lo scorso 28 maggio. Si tratta di una curiosa deviazione delle rotte commerciali precedentemente battute dal natante, dato che nell'ultimo anno aveva operato esclusivamente nel Mar Nero, facendo spola tra Samsun in Turchia e i porti di Novorossiysk e Tuapse in Russia. I sospetti si infittiscono se si osservano le coordinate di navigazione della Sirkin. La nave cargo ha infatti evitato la rotta più diretta tra le isole greche del Mar Egeo, preferendo circumnavigare Creta. Lo stesso tragitto era stato in precedenza percorso da imbarcazioni come la Bana, la Amazon e la Ana, già coinvolte in traffici di armi tra la Turchia e il governo di accordo nazionale di Tripoli. Allora, vi siete segnati questo nome, Sirkin, cargo costruito nel 1980, un centinaio di metri di lunghezza, non è nemmeno difficile trovare alcune foto su internet. Andrea Macchioni si è messo per alcune ore in questa lunga giornata di lavoro, ha provato a ricostruire quelli che sono stati non soltanto i tragitti, ma anche chi fosse l'armatore di questo cargo, che lo avete capito, è approdato a Misurata, colmo di che cosa? Tra poco vi darò i dettagli, per il momento possiamo fare solo alcune corroborate supposizioni, mettiamola così. Allora, Andrea Macchione a un certo punto ha chiamato anche l'armatore. Io devo confessare, avevo il sospetto che dietro la società armatrice, di cui peraltro trovate anche un sito internet, vi fosse qualche scatola cinese di troppo, qualche società di comodo con un numero di telefono che squilla a vuoto. Ebbene, il numero di telefono non squillava a vuoto, hanno risposto, hanno detto che non sapevano nulla di quel cargo, e alle domande incalzanti di Macchioni hanno poi detto vabbè, non è affar nostro, l'hanno messo giù, poi a ripetute chiamate non hanno più risposto. Quindi società armatrice turca, un cargo turco apparentemente scostato da fregate da guerra turche, viola l'embargo, porta armi, probabilmente carri armati addirittura, a Misurata. Poche ore fa tensione nelle acque del Mediterraneo antistanti, perché quella che era la fregata greca che si è aggiunta da poco alla missione Irini ha tentato di approcciare il cargo turco cercando di capire cosa contenesse. Qua vi sono differenti versioni. Secondo quella principale, ricostruita da vari organi di stampa, soprattutto dai greci, ma qua mettiamo i punti di domanda, un elicottero si sarebbe levato in volo dalla fregata greca per andare a controllare questo cargo turco. In quel momento sarebbe stato inquadrato l'elicottero dai radar della fregata avversaria, per così dire, cioè quella turca, che avrebbe gentilmente invitato l'elicottero ad allontanarsi. Ora il cargo, il Sirkin, è ormeggiato al porto di Misurata. Porto di Misurata che ormai è a tutti gli effetti parte, cuore pulsante di quella nuova controffensiva che si sta facendo a Sirte da parte appunto di Serrace. La fregata greca era la fregata Spezzai, la fine maggio aveva preso servizio nella flotta europea. Il problema è che a questo punto c'è stato un vero e proprio incidente. Lo sapete che Irini, abbiamo avuto anche l'ammiraglio responsabile, comandante dell'operazione, ai nostri microfoni, deve svolgere un ruolo di controllo ma anche di deterrenza, però è avvenuto che uno degli attori presenti ha mostrato i muscoli in maniera più spregiudicata dell'altro, e il tutto si sarebbe concluso, e continuiamo a mettere condizionali e tanti punti di domanda, con l'arrivo di un carico di armamenti in Misurata. Perché dico ragionevolmente carico di armamenti? Perché secondo i nostri controlli, durante uno degli stop che ha fatto il cargo, e in particolare nel porto di Haydarpasa, quartier sud orientale di Istanbul, affacciato sul Mar di Marmara, intanto questa imbarcazione è una roll off, vuol dire che permette l'imbarco e il disembarco di veicoli. Questo porto, questo quartiere, è nelle vicinanze proprio della caserma di Selimiye, che è la sede della prima armata dell'esercito turco. Insomma, non c'è bisogno di fare 2+2, però se volete fare 2+2 vi aggiungo un altro tassello. Immagini satellitari del 5 di giugno mostrano il cargo Sirkin attaccato al molo di Haydarpasa, intenta a imbarcare una fila di veicoli di colore scuro non meglio identificati. Due giorni dopo, il 7 di giugno, la nave salpa inizialmente destinazione Gabès, Tunisia, e poi invece cambia destinazione su Libia la mattina presto del 10 giugno dopo aver superato Creta. Questo è quello che è accaduto verosimilmente. 349-238-6666, arrivano tanti messaggi, tra pochissimo ve ne darò conto, però voglio prima darvi un pochettino di tasselli, perché abbiamo sentito da un lato Abdulkader Assad, giornalista libico che lavora per Libia Observer, che è un osservatore privilegiato su tutto ciò che avviene nell'importante paese nordafricano. Abbiamo chiesto a lui innanzitutto che cosa sappiamo di questo cargo. Avete segnato il nome Sirkin, 1980, 100 metri di lunghezza. Fate voi i conti di quanti mezzi militari potrebbe aver imbarcato. Sentite Assad. Riguardo alla nave, quello che sappiamo è che era accompagnata da una fregata turca ed è diretta in Libia. Questo è quello che sappiamo al momento. Riguardo a quello che la nave sta trasportando, possiamo solo fare delle speculazioni, ma sappiamo che c'è un accordo, un memorandum of understanding, tra il governo turco e il governo di accordo nazionale di Tripoli. Ed è per questo motivo che penso che parlare di violazione dell'embargo sulle armi da parte di questa nave sia ingiusto, perché sappiamo che dall'altra parte stanno facendo entrare nel paese illegalmente armi ed equipaggiamenti militari. È stata scoperta la fornitura di armi ad Haftar da parte della Russia. Stiamo parlando di diversi aerei da guerra. Si tratta quindi di valutare i pro e i contro di quella che può essere definita una violazione dell'embargo delle Nazioni Unite e di cosa non può essere definita in questo modo. Dalla voce di Abdulkader Assad, giornalista di Libia Observer, alla vostra al 349-238-6666, altra figuraccia dell'Europa, scrive un ascoltatore costringendomi a edulcorare leggermente il messaggio. Noi e i turchi siamo alleati con il governo islamista di Tripoli, i fratelli musulmani, insomma, quindi dovremmo essere felici, no? Scrive ironicamente un altro ascoltatore. La fregata greca doveva chiamare posto di combattimento e imporsi ai turchi, basta calare le brache davanti ai turchi, così Luigi, che invoca evidentemente una maggiore decisione. Però qua, gentili ascoltatrici e ascoltatori, è il mandato che ha avuto Irini. Se evidentemente le regole di ingaggio in quel caso prevedevano che ha, come dire, ha una muscolarità, un'alzata di toni da parte di un attore terzo, in questo caso la Turchia, bisognava lasciar correre, così è successo. La volontà politica evidentemente è la prima cosa, e poi i militari seguono delle procedure, dei protocolli e anche delle indicazioni che arrivano dall'Unione Europea e dalla legge internazionale, evidentemente. Altri vostri commenti: la fregata greca doveva... no, questo l'ho già letto, scusatemi. Abbiamo confermato il nostro peso a livello internazionale, ecco qua il messaggio che avevo segnato. Abbiamo confermato il nostro peso a livello internazionale, non contiamo nulla, che vergogna, così un altro ascoltatore. La Turchia ha messo la quarta approfittando del silenzio che sa di resa di chi supporta Haftar. Allora, proviamo a aggiungere tassello su tassello, andiamo proprio in Turchia, lo facciamo con la voce di Emre Kaya, analista del think tank turco indipendente Edam, diciamo sempre indipendente, però stiamo parlando di un paese, la Turchia, dalla deriva autocratica ormai sempre più evidente, senza che passi un giorno che vi siano centinaia di arresti, l'ultimissimo, se non erro, giusto uno o due giorni fa, almeno 300 militari colpevoli, secondo il governo, di essere legati ancora alla famigerata rete di Gülen, autori di quel colpo di Stato di qualche anno fa. Dicevo, però, vi faccio sentire la voce di Emre Kaya, perché lui abbiamo chiesto maggiori informazioni su quel cargo, Sirkin, sentite. Riguardo al carico della nave Sirkin, non abbiamo informazioni precise, ma se guardiamo ai precedenti, scopriamo che questa nave era stata usata alcune volte in precedenza, così come erano state usate altre imbarcazioni simili. Sappiamo ad esempio che la Sirkin era stata usata per il trasporto di veicoli corazzati per il trasporto truppe. Sappiamo che questo cargo ha una capacità di carico di 4.000 tonnellate e possiamo immaginare che abbia trasportato diversi veicoli corazzati, soprattutto se pensiamo alle ultime dichiarazioni del presidente Erdogan. Ha dichiarato che la Turchia continuerà a fornire assistenza militare al governo di accordo nazionale. La voce di Emre Kaya, il think tank turco Edam. Intanto la vostra voce, un ascoltatore via SMS: Conte e Di Maio hanno regalato la Libia ai terroristi ottomani, alludendo evidentemente alla, come dire, timidezza, ecco, mettiamola così, in politica estera italiana, io aggiungerei anche dell'Unione Europea, perché in un momento in cui il fronte libico continua a spostarsi verso la città di Sirte, ne davamo conto proprio ieri, l'Unione Europea ancora una volta invocava un ritorno ai tavoli del dialogo, quando è evidente che in questo momento è assolutamente impensabile che Sarraj fermi la sua controffensiva. Non è un caso, attenzione, che il cargo turco sia arrivato a Misurata. Due gli spunti che vorrei darvi in questa puntata in Nessun Luogo Lontano. Da un lato, Misurata è sempre stata una città importantissima, i misuratini sono una milizia molto forte e che hanno un peso nello scacchiere libico. Secondo, Misurata ha una posizione strategica perché consente in qualche modo, da un lato, di avvicinarsi proprio alle posizioni della Cirenaica, e dall'altro è sufficientemente vicina a Tripoli per offrire anche una copertura, diciamo, di quelle che sono le retrovie. Certo, bisognerebbe capire più tecnicamente che tipo di veicoli sono stati imbarcati e quali altri armamenti, ma dicevo, tornando all'aspetto prettamente diplomatico, è evidente che Sarraj in questo momento vuole monetizzare, e vuol dire terreno, vuol dire chilometri conquistati, quella che è la benzina turca che sta continuando ad arrivare nonostante l'embargo. Sam, un altro ascoltatore: la Francia che appoggia l'altra parte non dice nulla, ma l'abbiamo sempre sottolineato, l'appoggio francese peraltro è sempre stato molto sotterraneo, niente a che vedere con l'invio dei jet russi per esempio, o l'appoggio dell'Egitto, ancora di più i droni degli Emirati Arabi Uniti, o ancora di più, come qualche autorevole fonte di stampa americana diceva qualche mese fa, le milionate di dollari dati ad Haftar. Un Haftar che aveva garantito una campagna fulmine per Tripoli adesso sembra essere caduto in disgrazia, se è vero come è vero che giusto pochi giorni fa il capo dell'Egitto, il chiamatelo reggente, facciamo così, ecco, omologo generale anche lui, un po' più di peso, un po' più potente, ha intimato lo stop e un cessate il fuoco e un tentativo di ricorrere al tavolo delle trattative. È inutile che continuiamo a flagellarci dicendo che non contiamo niente, scrive un ascoltatore. Nella Costituzione c'è scritto che l'Italia ripudia la guerra come strumento per la risoluzione delle controversie internazionali, quindi o si cambia la Costituzione, spiccia, qua non capisco Gianluca che scrive da Bologna, però capisco perfettamente il senso ed è verissimo, se non fosse però, gentile ascoltatore, che abbiamo ottenuto un atteggiamento assolutamente ambiguo. Sto pensando alle missioni per esempio in Afghanistan, dove gli italiani hanno visto la prima linea e hanno pagato un tributo di sangue molto alto. Allo stesso tempo è vero che vi sono delle missioni di peacekeeping con dei mandati magari piuttosto ampi che ti fanno sporcare gli scarponi sul terreno. E in alcuni casi gli italiani si sono distinti per le grandi abilità, non soltanto tecniche e militari, con le quali hanno condotto le operazioni. Io qua, in tutta onestà, gentili ascoltatrici e ascoltatori, non ne farei un problema strettamente militare o tattico di quello che è successo qualche ora fa. Io credo che il problema sia politico, un generale disinteresse, che ne dica il Ministero degli Esteri italiano, sulla questione libica, perché continuare a litaniare l'opzione militare non è la soluzione, va bene, ma intanto c'è qualcuno che la sta abbracciando l'opzione militare, e la Turchia, come ricordavamo qualche giorno fa, si è assicurata appalti di ricostruzione in territorio libico. È evidente che c'è un conflitto di interessi, qua non voglio fare il super cinico, però è chiaro che la strategia turca, come scrive un ascoltatore, è molto molto chiara: il controllo del tratto di mare tra Cipro, Suez e Tripolitania, così scrive Francesco, e aggiungerei io anche golosi appalti di ricostruzione in Libia. Una generale proiezione della Turchia nel Mediterraneo e non solo, e il tassello libico è fondamentale, così come è fondamentale andare a sentire come stanno andando le borse. Valeria Bernardi, piccola pausa, poi torniamo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, ancora buona giornata gentili ascoltatrici e ascoltatori, se solo adesso vi siete sintonizzati, questa è la prima pagina di Nessun Luogo è Lontano, che sta cercando di raccontare quello che in parte è un mistero sul cargo Sirkin, partito dalla Turchia, batteva bandiera tanzaniana, approcciato qualche ora fa dalla missione Irini, dalla fregata Spezzai, una fregata greca che da poco si è aggiunta all'assetto navale aeronavale della missione Irini, secondo alcune ricostruzioni. Peraltro abbiamo provato a chiamare nuovamente l'ufficio stampa di Irini, per il momento non rilasciano commenti o dichiarazioni. Dicevo, un atteggiamento particolarmente aggressivo, secondo alcune ricostruzioni addirittura l'elicottero della fregata Spezzai sarebbe stato messo nel mirino del radar della fregata turca, il che vuol dire un segnale molto chiaro per chi è avvezzo alle cose militari: attenzione ti vedo, attenzione ti posso colpire. Al che il cargo Sirkin è arrivato ed è ormeggiato in questo momento a Misurata, secondo le ricerche che abbiamo fatto durante tutta la giornata. Diciamo che abbiamo corroboranti indizi che porterebbero a pensare che vi siano mezzi blindati, mezzi corazzati, pronti a far cosa? Molto ragionevolmente marciare verso Sirte, percorrere quella lunga autostrada che da Misurata attraverso il deserto lungo la costa spingerebbe Serragi a riprendersi anche l'importantissima città di Sirte. Molti dei vostri messaggi puntano l'attenzione su quella che è l'assenza della politica estera sia italiana che europea. Qualcun altro, come Gianluca da Bologna, l'origine di tutto è l'accordo sui migranti. Se l'Europa attacca politicamente la Turchia, Erdogan dà via libera ai migranti e la naturale, purtroppo, conseguenza è che i sovranisti vincono le elezioni e l'Europa crolla. Siamo impotenti, così Gianluca, che traccia in qualche modo un filo rosso tra quella che è l'ultima come dire, connotato politico europeo, con questa ormai consolidata marcia del sovranismo, la questione migranti, che è una delle più formidabili leve politiche che noi conosciamo, e l'atteggiamento a dir poco spregiudicato della Turchia. Perché lei fa tutto questo baccano per un episodio insignificante, così scrive un ascoltatore? Intanto speriamo di non fare baccano, ma cerchiamo di fare il più possibile informazione. E non è affatto insignificante, perché la missione sotto l'egida dell'Unione Europea, che è pagata anche con i contribuenti e che sta cercando di non far violare un embargo internazionale, apparentemente avrebbe fallito in questa sua missione. E le spiego anche perché non è insignificante, perché se è vero che decine di mezzi corazzati sono sbarcati, turchi, sono sbarcati in barba alle leggi internazionali a Misurata, tra poco Sirte cadrà. E quindi vorrà dire che, secondo le visioni più estreme, abbiamo, come scrive un ascoltatore, un dittatore ottomano in territorio libico. Nella migliore delle ipotesi, altri civili libici saranno presi fra le bombe. La pace, per il momento, a dispetto del nome dell'operazione, Irini in greco vuol dire pace, in territorio libico non si vede. Quindi, onestamente, respingo al mittente questa sua critica, perché non è affatto insignificante. Torniamo alla voce di Emre Kaya, think tank turco, si chiama EDAM. C'è il rischio che incidenti come quello avvenuto ieri con la fregata greca possano succedere di nuovo? Sentite. Questa è una domanda molto complessa, perché quello che è successo ieri stabilisce un precedente pericoloso per la missione Irini. L'obiettivo principale dietro a questa missione è quello di fermare l'invio di armamenti verso la Libia. E ieri ha fallito nel suo compito, nonostante la posizione piuttosto aggressiva nei confronti della Sirkin e delle altre navi turche che la accompagnavano. Dopo quello che è successo ieri, probabilmente la Turchia continuerà a inviare armi e veicoli corazzati in Libia, nonostante la presenza della missione europea. Probabilmente vedremo altri episodi di questo tipo in futuro, ma è molto improbabile che si andrà oltre a quello a cui abbiamo assistito ieri. Non ci sarà un'escalation tra paesi che sono membri della NATO e alleati. L'analisi, il commento di Emre Kaya del think tank turco EDAM. Intanto un ascoltatore risponde al precedente che dava ai sovranismi europei come da stigmatizzare, come uno dei mali, e questo ascoltatore si chiede: ma i sovranismi sono per forza così da demonizzare? E aggiungendo alcuni punti di domanda. E un altro ascoltatore rincara la dose dicendo: sì, ma noi sovranisti siamo ormai la maggioranza e prima o poi si andrà alle elezioni. Un'altra ascoltatrice, Marina da Milano, oggetto diplomazia nel Mediterraneo, temo che più che timidezza della politica estera italiana e europea parlerei di politica ignorante e superficiale, lo dico con grande tristezza, e mi sembra che il polso di voi ascoltatori sia abbastanza sulle tracce, diciamo, del messaggio che arriva da Marina, tanto che Walter ironicamente scrive: bravi turchi, state dimostrando che cos'è quella che chiamano politica europea. 349-238-6666, ma perché la nave di Rini si è ritirata? Forse avrebbe potuto agire con più decisione in quel tentativo di ispezionamento del cargo Sirkin. Sentite ancora Emre Kaya. La nave della missione Irini si è ritirata per il rischio di uno scontro diretto con le navi turche che scortavano il cargo. La loro posizione è che il cargo era sotto la protezione della Repubblica Turca e quindi la nave Irini era tenuta a ritirarsi. Anche se l'obiettivo principale della missione Irini consiste nell'agire come deterrente al trasporto e alla consegna di armi, ritengo che la missione non andrà, appunto, oltre la deterrenza, ad esempio rispondendo attivamente in caso di conflitto a fuoco con un'altra nave, specialmente se si tratta di una nave di un alleato NATO. Insomma, c'è una linea rossa, ed è una linea rossa molto larga, che difficilmente la missione Irini supererà. Tutto questo ha un aspetto legale, di diritto internazionale. Gli stati partecipanti a una missione del genere possono davvero intercettare con la forza un'altra nave? Bisogna trovare una risposta a questa domanda. Oppure le navi della missione Irini sono lì solo per innalzare una sorta di barriera intorno alla Libia e diffidare dell'avvicinamento. Perché se Irini non può agire anche con l'uso della forza, l'aspetto della deterrenza sbiadisce e vari paesi continueranno a inviare navi verso la Libia. act more forcefully, the deterrence aspect of it will also disappear and countries will continue their shipments toward Libya. E insomma, Emre Kaya del think tank turco Edam non le manda certo a dire. Peraltro puntualizza un aspetto che evidentemente altre navi così già sono arrivate, ragionevolmente arriveranno, ma vedremo a questo punto che cosa succederà nel Mar Mediterraneo. Però stiamo dimenticando un'altra parte che alcuni ascoltatori hanno sottolineato al 349-238-6666. Questo è un embargo aeronavale, secondo l'assetto di Irini. Però c'è da considerare dall'altra parte, il generale Haftar, tutti gli aiuti che sono arrivati, anche mezzi militari e uomini che sono arrivati via aerea attraverso rotte piuttosto lunghe, pure via terra attraverso l'Egitto. Non dimentichiamo che la Cirenaica condivide un confine lunghissimo con l'Egitto stesso. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Noi torniamo alla voce di Abdulkader Assad, giornalista del quotidiano Libya Observer. Passiamo sul piano diplomatico, mettiamo davvero il grandangolone, come amiamo dire noi. C'è la possibilità di una tregua in questo momento tra il governo di accordo nazionale di Sarraj, che preme alle porte di Sirte, sta per riconquistare buona parte della Libia, e un Haftar pare caduto in disgrazia, perché con Al-Sisi che gli dice: ma sì, risediamoci al tavolo della pace, dopo che Haftar aveva promesso un'operazione fulminante per prendere Tripoli in pochi giorni, e per un anno è rimasto lì impantanato nelle sabbie del deserto libico. Sentite cosa ne pensa Abdulkader Assad. La possibilità di una tregua è qualcosa che appartiene al passato. Haftar ha abbandonato la Libia occidentale, è stato respinto fino a Sirte, a Giufra, e probabilmente verrà rimandato ancora più a est. Le cose ora sono cambiate. Non è possibile aprire una negoziazione politica con Haftar, perché è stato incriminato dalle autorità di Tripoli per diversi crimini di guerra. Ha compiuto bombardamenti indiscriminati sulla popolazione civile di Tripoli per 14 mesi. E questo non può restare impunito. In questo momento parlare di negoziazioni politiche con Haftar non è verosimile. Queste le parole di Abdulkader Assad, Libya Observer, attento osservatore, come dice anche la sua, il nome della testata per cui scrive delle vicende libiche. Se è vero, come è vero, quello che ha detto, è evidente che il prezzo più alto lo pagheranno non soltanto le grandi diplomazie, ma soprattutto i cittadini libici, che ancora una volta saranno sotto il fuoco incrociato dei due eserciti, o dei due raggruppamenti di milizie, come forse più corretto per il momento chiamarle. Abbandoniamo le sabbie della Libia e le acque del Mediterraneo centrale, facciamo una piccola pausa, andiamo sulle strade italiane, poi apriremo l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Vi preannuncio che andremo in Israele, anzi in Palestina. Facciamo che andiamo sia in Israele che in Palestina. Gli anni 90, che anni, che ritmo. Nord, sud, ovest, est, è forse quel che cerco e neanche c'è. Ma sì che c'è. Se cerchi un software gestionale che ti permetta di gestire i tuoi processi aziendali sempre e ovunque, in ufficio, in viaggio, in smart working, in cloud, oggi c'è. Con Fluentis hai tutte le funzionalità di un ERP evoluto, completo di CRM e di Business Analytics, per analizzare i tempi e ridurre i costi della tua attività. Non ci credi se non vedi? Vai su fluentis.com, scarica l'app e inizia subito la tua prova gratuita. Fluentis, la F che funziona. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Il tema è caldo, è scottante ed è molto importante. Però intanto vi faccio presente che la mia opera di conversione al metal su Valeria Bernardi sta giungendo a compimento. Mi sta guardando malissimo, però è vero. Le note, peraltro, qualcuno di voi l'avrà riconosciute, gli Orphaned Land, sono, se volete, un bizzarro alfiere di un messaggio ecumenico. Sono israeliani, ma cantano anche in arabo. e propongono di risolvere la diatriba israelo-palestinese semplicemente organizzando dei concerti metal. Evidentemente è una provocazione, ma l'idea, il concetto è che l'arte può unire assolutamente i due popoli. E quelle che sono le frizioni profondissime politiche tra i due popoli, sicuramente nelle parole del leader della band potrebbero evaporare, cosa che non è accaduta, e non è accaduta soprattutto in una sede importantissima giudiziaria, il supremo organo giudiziario israeliano, sto parlando della Corte Suprema, che ha annullato come incostituzionale una legge del 2017 che avrebbe legalizzato gli insediamenti ebraici in Cisgiordania costruiti su terra privata palestinese. Come riporta l'agenzia ANSA, questa decisione avviene proprio mentre il governo Netanyahu intende mettere la quinta e annettere parte della Cisgiordania. Si basa sul fatto, scrive la Corte, che la legge viola i diritti di proprietà e di uguaglianza dei palestinesi e privilegia gli interessi dei coloni israeliani sui residenti palestinesi. Il tutto riguarderebbe, pensate, circa 4.000 alloggi costruiti dai coloni. Do quindi il mio buongiorno e benvenuto, anzi ribuongiorno e ben ritrovato a Sergio Della Pergola, statistico, insegna demografia e studi sulla popolazione all'Università Ebraica di Gerusalemme. Professor Della Pergola, buongiorno. Buongiorno. Allora, professore, che cosa comporta questo stop da parte della Corte Suprema agli insediamenti sul piano strettamente politico? Da un lato Benny Gantz, bianco e blu, ha detto che la sentenza sarà rispettata, mentre ieri Benjamin Netanyahu ha detto che, attenzione, bisogna assolutamente controllare l'ovest del Giordano. C'è aria di crisi politica, secondo lei? Beh, l'aria di crisi politica c'è sempre, nel senso che il governo di unità nazionale che si è creato, questo molto complesso e faticoso governo molto, molto pesante e numeroso, funziona con molti scricchioli e si sentono quasi quotidianamente delle discussioni fra ministri sugli opposti fronti che ci fanno domandare quanto potrà durare questa formula, che peraltro era necessaria dopo tre tornate elettorali. Sì. Ma va capito bene il compito della Corte Suprema. La Corte Suprema in Israele combina quello che in Italia sono i compiti della Corte Costituzionale, della Cassazione, in un certo senso anche del Tribunale Amministrativo Centrale. E nella fattispecie effettivamente l'intervento è di tipo costituzionale, cioè è stata dichiarata non accettabile in quanto in contrasto con altre leggi questa disposizione che prevedeva sistemazione, l'arrangiamento, e traduco letteralmente dall'ebraico, di quelli che sono dei terreni di appartenenza privata di palestinesi, che non sono cittadini israeliani ma fanno parte dell'autorità palestinese, terre private sulle quali sono state costruite effettivamente delle abitazioni. Sì. Ora, il punto di vista della Corte Suprema è interessante perché esistono qui due dimensioni. Una è quella del diritto internazionale, del diritto pubblico, se vogliamo, della politica, e quindi del senso dell'annessione anche in prospettiva. Ma la Corte Suprema è intervenuta qui su un piano che è strettamente di diritto privato, e cioè la prevaricazione del diritto di proprietà di persone che, pur non essendo cittadini israeliani, però, dice la sentenza, vanno trattati equamente come ogni cittadino, ossia non si può ad alcuni espropriare un terreno e ad altri non farlo, la legge va applicata ugualmente a tutti, e quindi è sul diritto di proprietà che è intervenuta la Corte Suprema, quindi annullando la legge che aveva consentito di espandere alcuni degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania anche a terre adiacenti che però in realtà appartenevano a qualcun altro. È proprio la prevaricazione, il passaggio del confine di proprietà che non è ammissibile. Allora, chiaramente il partito blu-bianco ha sempre detto che la Corte Suprema va rispettata, e la Corte Suprema è un organo chiaramente molto autonomo e molto di grande prestigio. La parte governativa ha avuto una reazione che non è proprio unica, nel senso che c'è chi dice va bene, la legge è stata annullata dalla Corte Suprema, la rivotiamo, cioè rivotiamo una legge che non potrà essere identica, ma cercheremo di farla molto simile, il che ovviamente comporterebbe in seguito un ulteriore ricorso e un'ulteriore sentenza. Quindi il problema fondamentale è sul potere della Corte Suprema rispetto al Parlamento. Qui la vera polemica è da parte di coloro che hanno tentato e finora non ci sono riusciti, e Netanyahu penso che continuerà a volere perseguire questa via, e di votare una legge per cui le sentenze della Corte Suprema a un certo momento possano essere superate da un ulteriore voto del Parlamento, forse con una maggioranza qualificata, e a questo punto basta, la Corte Suprema può aver detto quello che vuole, ma ha finito il suo compito. Certo. Ecco, su questo chiaramente aleggia la prospettiva dell'annessione di una parte della Cisgiordania promessa da Netanyahu il 1 luglio. Questa chiaramente è una questione non di diritto privato ma di politica internazionale. Non è assolutamente chiaro in questo momento dove andranno le cose, perché esiste, come è noto, una forte opposizione internazionale. Il ministro degli esteri della Germania, che era in visita qui ieri, ha detto che la Germania disapprova e potrebbe anche passare a delle sanzioni. Il governo dell'autorità palestinese ha detto che potrebbe proclamare l'indipendenza, cosa che non è mai stata fatta finora, e che creerebbe allora una situazione differente, perché oggi in realtà Israele ha occupato dei territori che non appartenevano in precedenza a nessun altro Stato, nel senso che la Cisgiordania faceva parte della Giordania, ossia della Transgiordania hascemita, che però ha rinunciato negli anni Ottanta a ogni sua competenza su quei territori. E non essendoci uno Stato palestinese indipendente, i palestinesi non lo hanno mai dichiarato, questi territori Israele li ha considerati territori magari contesi non occupati. Se invece la Palestina dichiara l'indipendenza, a questo punto esiste uno Stato indipendente e quindi Israele si troverebbe a occupare dei territori di un altro Stato, e questo sarebbe chiaramente un cambio di marcia nel lungo conflitto fra Israele e i palestinesi. Anche se, professore Della Pergola, a onor del merito, tutti i documenti delle Nazioni Unite parlano di territori occupati, quindi anche in questo senso c'è una giurisprudenza abbastanza consolidata nel considerarli occupati. Sì, è una giurisprudenza che però è discutibile, nel senso che quello che dice le Nazioni Unite, fra l'altro, a volte appare l'articolo qualificativo i territori, e in altre versioni appare non appare l'articolo i, che in italiano è fondamentale, quindi si tratta di territori. Allora, quali siano questi territori è un fatto chiaramente da negoziare fra le due parti. Chiaramente il consenso internazionale di non riconoscere la presenza israeliana in quei territori, ma l'eventuale dichiarazione di indipendenza palestinese cambierebbe, a me pare, in maniera abbastanza radicale i termini della disputa, e su questo il governo israeliano è chiamato a riflettere, perché bisognerà vedere se Israele e lo stesso Netanyahu dovrà radicalizzare lo scontro, arrivando in teoria anche a uno scontro con gravi disordini. Certo, professor Della Pergola, quello è uno dei grandi fantasmi che sono lì sullo sfondo, perché anche l'autorità palestinese ha paventato questo pericolo. Professore, siamo davvero in chiusura. Naturalmente io la ringrazio tantissimo per questa sua analisi, ci ha aiutato a capire meglio cosa sta accadendo. Mi sa che ci risentiremo molto molto a breve. Grazie al professor Sergio Della Pergola. Noi velocissimi vi lanciamo solo un monito. Che non essere in ritardo. Quindi velocissimo, grazie a voi all'ascolto, grazie a tutta la squadra, l'appuntamento è domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.